immagine. Oh Pivelli, Tauro sei una figata, l'ascolto 100 volte al giorno da quando ho comprato la compilation del programmino, regolarissimo. Sei una persona molto strana e assai curiosa. Sai annoiarmi in ogni cosa. Noi adesso poi io sensazione di un attimo. Un sogno. Italia Network, e qui c'è Gigi D'Agostino, belle storie musicali in ogni momentino, se ascolti il programmino, se ascolti il programmino, questa è Radio Italia Network, e qui c'è Gigi D'Agostino, belle storie musicali in ogni momentino. Se ascolti il programmino. Ho girato e rigirato e quel bullone si è avvitato. We'll be right back. di giorno la musica mi gira intorno. Favola breve se ne va, se ne va. Il disco fa click e vedrete fra un po' si fermerà.